E adesso alla trattoria. Ma prima il nuovo vocabolario. Ascolti le parole e le espressioni nuove e le ripeta dopo la seconda volta. Venite. Come, plural. Venite. Vostro. Your, plural. Vostro. Un po' di... Some. Un po' di... Vino della casa. House wine. Vino della casa. Un litro. A liter. Un litro. Acqua minerale. Mineral water. Acqua minerale. È uguale. It's the same. È uguale. Adesso, come al solito, ripassi il nuovo vocabolario e quando si sente sicuro, continui.